Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Mr. Hughes, sono Noah Dietrich, mi hanno detto che l'avrei trovata qui. Dietrich, già, sa cosa sto cercando? Beh, da quanto ho capito, lei sta cercando un comandante in seconda per la Hughes Tools, uno che l'aiuti a gestire gli aspetti finanziari della sua azienda. Sì, sto cercando qualcuno che l'amministri e pretendo un ottimo lavoro, senta. Vede, Mr. Dietrich, lei ha sotto gli occhi la più grossa aviazione privata di tutto il mondo. Avviate i motori! Avete appena ascoltato una clip tratta da Via Vieto, un film del 2004 con Leonardo DiCaprio e un film di Martin Scorsese. Questo film ci piace perché è uno dei pochissimi film di Hollywood che ha come eroe un imprenditore. Infatti il film parla di Howard Hughes, un imprenditore, regista, aviatore e produttore aeronautico e produttore cinematografico, pensate un po'. E la storia... una storia modello di un imprenditore di talento e capace che investe tutti i suoi soldi, tutti i soldi dell'eredità del padre che aveva una compagnia petrolifera in molteplici attività imprenditoriali. Pensate che a un certo punto comprò la compagnia aerea TWA, ha fondato una compagnia per costruire aerei, la Hughes Aircraft, ha comprato due compagnie cinematografiche, la Caddo Company e poi la RKO, ha fatto lavorare Bette Davis, Lana Turner e ha personalmente progettato degli aerei che poi sono stati costruiti. Pensate che lo Hughes H4 Hercules è tuttora l'aereo con la maggiore portata alare mai costruito. Perché ho tirato fuori la storia di un imprenditore eroe? Perché di imprenditori, di industriali eroi in Italia ce ne sono tantissimi e sono quel 20% che ci sta consentendo di rimetterci in moto. Nel primo trimestre del 2017 sono usciti, come abbiamo ricordato nella trasmissione di ieri, dei dati sull'industria che sono veramente incoraggianti. Però che cosa emerge anche? Che tutta questa ripresa si deve a un 20% di imprese, di aziende che sono come l'eroe di DiCaprio, come Howard Hughes, che esportano, che fanno ricerca, che sono molto internazionalizzate. L'altro 80%, come vedremo leggendo pezzi di un articolo del Sole 24 Ore di Paolo Bricco, che è un collega bravissimo, l'altro 80% è spiaggiato e ancorato al mercato interno. Tutti questi dati che abbiamo già visto ieri li commentiamo ancora oggi con il professor Marco Taisch. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, ci sono dei dati che indicano un miglioramento, come quelli sull'aumento degli ordini di macchine, utensili o di robot, dati che abbiamo visto ieri, che sono i dati dell'UCIMU. Però sembrerebbe che questo miglioramento sia dovuto solo a quel 20% di imprese che vanno decisamente bene, che sono molto internazionalizzate e che fanno molta ricerca e sviluppo. C'è ancora un 80% che, come scrive Paolo Bricco sul Sole 24 Ore del 28 aprile, come spiaggiato e ancorato al mercato interno. Ma io non sarei così catastrofico, sono un pochino più, anche se vogliamo, di indole confidente sul futuro. È chiaro che stiamo analizzando i dati del primo trimestre, stiamo analizzando i dati che fanno riferimento all'entrata in vigore del piano Calenda. Il primo 20% di imprese è quello che evidentemente ha colto o era forse in grado di cogliere, perché si era già preparato l'entrata di questo piano. Io mi aspetto che tra quell'80% definito spiaggiato qualcuno nei prossimi mesi, nei prossimi trimestri in realtà si dia da fare. E poi siamo pragmatici, in tutte le rivoluzioni industriali e questa che stiamo vivendo, una di queste, qualcuno non ce la fa, ma questo non fa nient'altro che rafforzare poi il sistema. Il fatto è che, a parte questo, l'Italia è divisa in due poli. La stessa Mediobanca, quando ha realizzato le sue analisi sul quarto capitalismo, ha detto che il grosso della produttività in Italia viene fatto da 3.600 medie aziende, tutti gli altri seguono a ruota o sono in difficoltà. Io volevo proseguire il dibattito che propongo agli ascoltatori fedeli e non fedeli di questa trasmissione. Che cosa pensate dell'Industria 4.0? È un fenomeno che cambierà le nostre vite? È qualcosa di importante? Dite la vostra opinione a fabbrica@radio24.it. Intanto avvisi sul traffico e pubblicità.

Ecco, tant'è che l'indice di fiducia delle imprese dell'Istat è aumentato. A dicembre era 100,8, a marzo era 105,1 e ad aprile è diventato 107,4. Quindi non solo crescono gli ordinativi di macchine, ma cresce anche la fiducia delle imprese, tant'è che 107,4 punti di aprile è il valore più elevato che abbiamo registrato fin dal 2007. Pensate un po'. Invece, addirittura, l'indice di fiducia dell'Istat dei consumatori è in diminuzione. Era 110,5 punti a dicembre, poi è sceso a 107,6 a marzo e a 107,5 ad aprile. Quindi c'è un disallineamento tra le imprese e i consumatori e comunque il mercato interno stenta a ripartire. Lei come la vede, Tais? Questi dati evidentemente sono innegabili. Attenzione a questa considerazione: quei dati si riferiscono ai consumatori italiani e alla loro fiducia, mentre si riferiscono a imprese che, pur essendo imprese italiane, in realtà esportano e quindi vedono e sentono un mercato che è un mercato mondiale. Allora, l'anno scorso noi abbiamo avuto il massimo delle esportazioni che l'Italia abbia mai avuto. Questo evidentemente a fronte del fatto che le nostre imprese, anche con l'industria 4.0, stanno diventando più competitive. Il fatto che il Made in Italy, e non mi riferisco al fashion o al food, ma mi riferisco a quel Made in Italy del manifatturiero fatto da produttori di macchine utensili che hanno e che godono di una reputazione internazionale, sta andando evidentemente bene. Il mio osservatorio è un pochino diverso. Io vedo, rispetto a quello di Bricco, vorrei in qualche modo dissentire. Io vedo che la fiducia, lo sentiamo anche noi, sta aumentando. La voglia di capire che cos'è l'industria 4.0 da parte delle imprese è molto aumentata in questi ultimi mesi. Noi stiamo facendo corsi di formazione, stiamo facendo seminari, il dibattito si è aperto, la voglia di capire, la curiosità c'è, e questo evidentemente è un elemento fondamentale che mi fa in qualche modo presumere che questo indice di fiducia delle imprese sia destinato ad aumentare ulteriormente rispetto a questo. Però i consumi interni non decollano, il nostro problema è che sono fermi i consumi interni. Però qui non è un problema di industria 4.0, qui ci sono evidentemente anche altri fattori che devono essere presi in considerazione per analizzare e comprendere questi fenomeni. Ecco, forse il recente provvedimento sul reddito di inclusione potrebbe dare una spinta ai consumi interni. In fondo i poveri, quelli che prenderanno i 480 euro, se li spendono tutti. E questo sicuramente andrà in quella direzione di aiutare la ripresa dei consumi interni. C'è anche un problema di fiducia. Io credo che i mercati dei consumatori arrivino in qualche modo sempre dopo quello delle imprese, proprio perché hanno una minor capacità di vedere nel medio-lungo periodo cosa che le imprese e gli imprenditori normalmente hanno. Certo è che l'Industry 4.0, se è la quarta rivoluzione industriale, ancora non ha toccato la produttività. La produttività nostra è ferma. La produttività nostra è scesa, questi gli ultimi dati che abbiamo a disposizione, attenzione, sono quelli del 2015, perché i dati del 2016 evidentemente non sono ancora disponibili, però attenzione a aspettarci o considerare i miracoli. Qui stiamo parlando di fenomeni che hanno delle costanti di tempo, che sono delle costanti di tempo che si misurano in anni. L'industria 4.0 è iniziata qualche anno fa, andrà avanti sicuramente per molti altri anni, e quindi i fenomeni o i risultati di azioni che sono state prese recentemente sicuramente li vedremo nel medio periodo, e il fatto che la fiducia... Comunque è un po' un paradosso, perché? La quarta rivoluzione industriale è la prima rivoluzione industriale che è stata annunciata prima che avvenisse, perché quando c'è stata la prima rivoluzione industriale con i telai a vapore, con le macchine a vapore, non è che quelli che installavano una macchina a vapore sapevano di stare facendo la rivoluzione industriale, loro semplicemente cercavano di aumentare la loro produttività, e più tardi gli storici hanno classificato questo fenomeno in tal senso. E lo stesso è avvenuto con la terza rivoluzione industriale, quella dei PC. Invece invece qui la si annuncia prima che avvenga, e questo secondo me è curioso. Ecco. Beh, è vero che l'abbiamo annunciata, però è anche vero che è iniziata prima del 2011, di quando alla Hannover Messe abbiamo in qualche modo detto, i tedeschi, i nostri amici tedeschi hanno detto che stavamo vivendo la quarta rivoluzione industriale. Io volevo chiedere, ma chiederlo con forza, ai nostri ascoltatori, ce ne sono alcuni, sono diverse migliaia che ci seguono da 2 anni e che si sono sentiti raccontare l'Industry 4.0 in tutte le salse, adesso, finalmente, diteci la vostra. Che cosa pensate dell'Industry 4.0? Scrivete a fabbrica@radio24.it, leggeremo le vostre email e le commenteremo. Ripeto, fabbrica@radio24.it. Adesso chiudo, saluto e ringrazio il professor Marco Teich. Buona domenica.